Il progetto, è un progetto, che è supportato dall'Università di Roma 3, che ha gestito tutta quanta la parte di progettazione con l'aiuto dell'Università della Sapienza, che ha curato la parte di design industriale, e della Libera Università di Bolzano per quanto riguarda la parte, di comportamento energetico della casa. Un progetto che, ha coinvolto sia professori che studenti. Sono circa una quarantina di ragazzi che hanno partecipato e lavorato per 2 anni alla realizzazione di questa casa, non solo dal punto di vista delle immagini del classico progetto disegnato, ma proprio la realizzazione fisica in cantiere della casa. Cosa vi era stato richiesto in fase di progettazione? Cioè, quali erano i parametri cui dovevate attenere? Allora, il concorso, che è un concorso internazionale a cui partecipano 20 università di tutto il mondo, prevede la costruzione di un modulo abitativo che sia autosufficiente, che sia una casa sostenibile, ma che soprattutto, attraverso l'uso dei pannelli fotovoltaici sia, autosufficiente e immetta magari anche, più energia, di quella di cui ha bisogno e quindi possa essere inserita nella rete, e rivenduta alla rete elettrica nazionale. E l'obiettivo è stato raggiunto. È stato raggiunto in pieno anche perché noi siamo arrivati terzi a questa competizione e la nostra casa ha avuto il primo premio di sostenibilità. Abbiamo la casa più sostenibile d'Europa. Ecco, e com'è fatta la casa più sostenibile d'Europa? Allora, la nostra casa è una casa, che usa tutti i materiali naturali. Abbiamo un'attenzione veramente maniacale alla naturalità dei materiali. E il concetto principale su cui funziona la casa è invece il comportamento passivo, cioè, attraverso un muro riempito di sabbia noi riusciamo a minimizzare l'apporto degli impianti per riscaldare e raffrescare la casa. Questo muro di sabbia fa sì che durante il giorno il calore all'interno della casa venga immagazzinato dalla sabbia e venga ceduto durante la sera, e attraverso la ventilazione naturale quest'aria calda viene espulsa dalla casa. Allo stesso tempo, d'inverno, questo stesso sistema permette di riscaldare durante la sera la casa e quindi avere meno apporto elettrico. Visto che c'è un ampio uso del legno, ad esempio, tra i materiali. Sì, il legno è stato il materiale principale, tutta la struttura della casa è fatta in legno, è una struttura antisismica, infatti è una casa per il Mediterraneo, una casa che può essere inserita in tutte quelle zone ad alta sismicità della zona mediterranea italiana. E anche gli isolanti che noi utilizziamo sono in fibra di legno, un materiale altamente naturale. E anche ad esempio la guaina dell'edificio è una guaina senza bitume e riciclabile al 100%. Quindi tutti materiali altamente naturali e materiali che immettono poca CO2 durante il ciclo di vita. La casa è di 56 metri quadrati e ha una parte, diciamo, di salone soggiorno più una stanza da letto, un bagno e una cucina. Ha un cuore, che è un elemento in 3 dimensioni che contiene tutti quanti gli impianti della casa, ha il bagno, la cucina e viene preassemblato in fabbrica. Questo permette un controllo maggiore della produzione, delle dispersioni e fa sì che venga facilmente trasportato, perché le dimensioni di questo blocco 3D sono quelle di un semplice camion, quindi senza bisogno di trasporti eccezionali. Il trasporto è un punto forte di questa casa perché tutti quanti gli elementi possono essere inseriti in camion, in container standard e trasportati addirittura attraverso l'uso del treno. Infatti la casa da Bolzano, dove è stata costruita, è stata trasportata a Madrid attraverso l'uso del treno, e anche qui a Bologna è stata ritrasportata attraverso l'uso del treno. Immettendo così meno CO2 nell'ambiente, abbiamo risparmiato la CO2 di 5 camion per un tragitto di 4.000 km. Questo è un progetto di eccellenza realizzato da giovani italiani con una collaborazione tra varie università, vari enti, eccetera. In genere in Italia capita spesso, che questi progetti realizzati da studenti, giovani italiani, vengono visti un po' come un gioco. Che effetto vi ha fatto in questo senso vederla realmente realizzata? Abbiamo avuto l'appoggio dell'università, del dipartimento e di tutte quante le aziende che hanno creduto nel progetto. Grazie alle quali siamo riusciti ad arrivare alla realizzazione della casa. Senza i nostri sponsor e le aziende che hanno collaborato, noi non saremmo riusciti fisicamente a costruire questa casa. È un'esperienza fantastica a 25 anni avere l'opportunità di partecipare a questo concorso e costruire questa casa. Adesso cerchiamo di non far sì che tutto questo venga disperso, che tutte le energie che sono state usate in questi 2 anni per arrivare alla realizzazione di questa casa, al terzo posto nella competizione, vengano distrutte. Bisogna continuare a lavorare per far sì che questa tipologia, questa innovazione e questa cultura diversa del fare la casa diventi una realtà comune, non solo il gioco e il progetto per il concorso. C'è anche, dicevamo prima, un problema, diciamo, legato ai costi, nel senso che spesso, diciamo, dei prototipi di case sono ideali da un certo punto di vista e poi hanno dei costi di realizzazione troppo alti. Questa casa è un po' la casa Formula 1 Ferrari, quindi il top dell'efficienza. Nel momento in cui la casa poi viene realizzata, messa in serie, il costo diminuisce molto. Non si può fare ancora una stima precisa del costo, però sicuramente sarà un costo accattivante, anche perché è una casa a bolletta quasi zero, perché produce attraverso l'impianto fotovoltaico più di quanto consuma, quindi l'utente può immettere nella rete e guadagnare attraverso l'energia elettrica e comunque negli anni recuperare il costo iniziale.